Bentornati anche questa settimana ad una nuova puntata di Rock Legends, al microfono come sempre il vostro Jean-Luc, puntata con ospiti in studio. Da Bologna ci è venuta a trovare la rappresentante di una band al femminile molto interessante e nota nel circuito indie. A te la parola per le presentazioni. Sono Sara delle Diva Scarlet, appunto la leader della band al femminile bolognese rock indie. E con Sara, chitarrista e cantante delle Diva Scarlet, a cui più avanti nella trasmissione ascolteremo i brani del loro nuovo disco Non Più Silenzio, facciamo un paio di tuffi nel rock del passato, soffermandoci per la prima parte nel punk di fine anni 70. Il primo brano era degli X-Ray Specs, formazione inglese alquanto atipica, guidata dalla cantante Polly Styrene, dalla sassofonista Laura Logic e dal chitarrista Jack Airport. Dal loro unico disco Germ Free Adolescence del 1978 abbiamo ascoltato The Day the World Turned Diglo. Stiamo parlando di una formazione assolutamente atipica per il periodo e magari anche avanti con i tempi. Che ne dici? Avantissimo, tra l'altro un tiro che veramente non mi aspettavo, una bella freschezza nel groove, nel live, veramente belli. E sono passati bravi. 31 anni. Caspita, sembra fatto ieri. La storia delle Diva Scarlet è costellata da grandi soddisfazioni che sono arrivate fino ai nostri giorni. Una breve cronistoria del vostro gruppo e il perché di questo nome. Allora, nasciamo nel 1996, quindi secoli fa, tra i banchi di scuola, tra le feste d'istituto, le feste dell'unità, i rock club, i pub della città. Bologna è sempre stata molto attiva e noi siamo sempre state... Posso confermare. Siamo sempre state nel giro dei live. E nasciamo come band subito che scrive pezzi propri, poche cover, poche improvvisazioni di altro genere. Volevamo subito scrivere quello che ci passava per la testa, quell'età, 16 anni, quando eravamo ancora. E non è male per niente, mentre tutti si perdevano tempo a fare cover dei Metallica, dei Nirvana, di tutti quanti, noi abbiamo subito, siamo andate dritte al punto, come il nostro primo LP che abbiamo fatto appunto con il nome Skummer. E poi ci siamo evolute, nel tempo abbiamo ascoltato un sacco di musica, ci ha seguito Graziano Cernoia che ci ha portato alla prima incisione del primo album Apparenze con la Mescal, e abbiamo cambiato nome in Diva Scarlet, che è la nostra icona, diciamo rappresentante, la nostra carica, la nostra grinta diva, cioè diciamo come essere donne, ma donne di altri tempi, di un tempo, insomma quelle forti, veramente cariche, non le dive di adesso, mezze svestite, tutte un po' sciocche ma molto serie. E Scarlett diciamo che sintetizza la nostra grinta, la nostra forza sul palco. Non c'entra la nostra... niente Scarlett Johansson. Non c'entra niente, non c'entra, esatto, niente. Troppo nuova lei. Esatto. Esatto. Il punk nella sponda americana ha conosciuto il suo massimo splendore agli inizi degli anni 80 in California con alcune band molto interessanti come gli ex di John Doe e di Christine Xenservenka. Dal loro disco Wild Gift del 1981 il brano It's Who You Know. I don't wanna make you cry. Anche gli ex hanno in certo modo anticipato le scene indie degli anni 90. La parola a te, Sara, per una tua impressione sul pezzo. Il pezzo mi è piaciuto tantissimo e mi ricorda un sacco di gruppi, tra l'altro dell'Emilia Romagna, che ci sono usciti adesso, quindi attualissimi anche c'è loro. C'è qualcuno che mi ha detto che gli ricordano i Pixies. I Pixies, oppure appunto i nostri Le Fauve, gli Echel Gigs, cioè veramente, veramente attuali. Magari veramente... non sapranno neanche di aver tinto agli X. Certo, perché sono giovanissimi, hanno appena 20 anni, quindi il bello è anche quello della musica, che si riescono a comunque a citare canzoni del passato nonostante non le abbiamo mai conosciuti, mai sentiti. Influenze musicali delle Diva Scarlet, quali sono e quanto incidono nella creazione delle vostre canzoni? Allora, incidono tantissimo, e ti devo dire che noi siamo un po' più anni 90, cioè totalmente anni 90, cioè noi siamo nati con cresciuti con Nirvana, Skank and Nancy, Smashing Pumpkins, poi andiamo anche un po' più indietro, Janis Joplin, Tracy Chapman, Jimi Hendrix, The Doors, The Creedence, insomma, e tanti altri. Però attualmente, insomma, abbiamo cominciato ad ascoltare anche gruppi italiani che all'inizio non mi piacevano un granché, poi diciamo che la scena italiana indie rock si è espansa, quali Marlene Kunz, After Hours, Cristina Donà e altra gente molto molto apprezzabile, Paolo Benvenu, Marta sui tubi, e quindi queste sono le nostre influenze. Chiaramente ci facciamo appunto influenzare, i nostri album sicuramente tra le note contengono queste citazioni, ecco. Per chiudere questa parte in tema punk power pop, ascoltiamo ora i nordirlandesi Undertones, che nel 1979 inviarono un demo a John Peel della BBC Radio con la speranza che fosse trasmesso. Non solo lo fece, ma fu anche la fortuna del gruppo per alcuni anni. Dal disco Undertones di quell'anno, il brano Billy Stirred. Dopo la pubblicità torniamo con Sara, ospite in studio.